Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radio qui dagli studi di Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine, ma andiamo con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano era Retribution, The Behind Enemy Lines, che noi come ogni giovedì lo usiamo come ovviamente sigla d'apertura di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30 in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane qui da Udine. Ricordo che questo programma viene così mandato avanti, come si suol dire, grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ma ora andiamo invece all'ascolto di questa band, una band svedese, da un loro album di circa 15 anni fa, del 2008. Loro sono gli Hand of Hall, e questo è il loro album The Art of Decadence, direttamente dalla Svezia. Sì, un saluto incazzato anche da parte mia. Allora, stasera io volevo iniziare con parlando appunto contro il 41 bis e parlando della lotta del prigioniero Domenico Porcelli, prigioniero appunto al 41 bis a Bancali, in sciopero della fame dal 28 di febbraio scorso, quindi da quasi da 5 mesi e mezzo. E volevo parlare di questo perché è un se ne parla pochissimo. Diciamo che ci sono state manifestazioni di solidarietà anche di piazza da parte del movimento, soprattutto del movimento anarchico, e sull'onda diciamo anche delle lotte di Alfredo, però non c'è un silenzio molto molto grave, insomma, generale sulla faccenda di Domenico Porcelli e anche sulla faccenda di Natale, che è un altro di cui non sappiamo neanche il cognome, che è un altro prigioniero di cui non si sa nemmeno se ha smesso lo sciopero della fame oppure no. Allora, sull'onda poi delle cose di Messina Denaro, adesso cioè in sti giorni qua hanno bombardato questa menata di lui che non si è pentito, che è stato catturato solo perché per la malattia, e quindi lì tutta una serie di retoriche forcaiole, insomma, che vi risparmio, ma per dire che si va avanti così per effetto divismo. Allora, su Domenico Porcelli c'è una, trovate su Radio Onda Rossa, vi invito ad andare ad ascoltare, una interessante intervista alla sua avvocata, l'avvocata Pintus, che tra l'altro è anche tra gli avvocati di Alfredo, che è andata in onda il 7 di agosto. Allora, in questa intervista io un po' sintetizzo la questione, perché in questa intervista emergono molte, molte cose sulla lotta di Domenico Porcelli e anche su quelle che sono le sue condizioni. Partiamo però dalla sua lotta. Abbiamo detto che lui è in sciopero della fame dal 28 di febbraio. Intanto lui si trova al 41 bis sotto custodia cautelare, cioè non ha avuto una condanna definitiva. È stato trasferito da Nuoro a Bancali 4 anni fa, era già al 41 bis, cioè praticamente gli è stato dato il 41 bis senza una condanna definitiva. Prima era Nuoro, poi è stato mandato a Bancali. Sappiamo anche dalle vicende di Alfredo che Bancali è uno dei luoghi peggiori, diciamo, di applicazione del 41 bis, come lo chiamano loro, è un fiore all'occhiello del regime di tortura del 41 bis. Allora, a fine gennaio 2023 viene confermato a questo prigioniero in lotta il regime detentivo speciale, e quindi lui decide di intraprendere questa forma, diciamo, di estrema di protesta, cioè dopo aver impugnato presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma il provvedimento di proroga del 41 bis per altri 4 anni. L'avvocata ci fa, in questa intervista che appunto vi invito ad ascoltare, fa notare che lo sciopero della fame è uno strumento quasi, diciamo, quasi l'unico strumento di lotta pacifica per le persone che sono detenute, e vieppiù per le persone detenute in regime di 41 bis, per cercare di dar voce in qualche maniera alle proprie istanze. E allora Domenico lotta, oltre che per la prima imposizione di questo regime detentivo, in questo momento specifico lotta contro questo rinnovo del 41 bis, perché in questa proroga sono state inserite delle cose inesatte e false per le quali lui ha querelato, tra l'altro. Ad esempio, si dice che anche al 41 bis avesse a disposizione cellulari e computer, il che è un falso. E poi si dice che il 41 bis gli è stato prorogato perché lui sarebbe stato condannato per traffico di sostanze stupefacenti e di armi, quando gli avvocati dicono che non ha mai avuto un capo di imputazione del genere. Allora si chiede Domenico Porcelli, come fa il ministro Nordio in questo caso, a sottoscrivere il 41 bis senza vedere che in queste informative non corrispondono al vero, non sono corrette? Ecco, su questo faccenda poi chiaramente la questa forma estrema di protesta si è fatta, cioè viene messa in atto affinché il ministro si interessi di questa faccenda, visto che è il ministro che ha confermato, diciamo, questa proroga. Poi dopo sui vari media di regime cazzari si leggono delle cose assurde, cioè tipo leggo da proprio da oggi è uscita la roba che la garante regionale delle persone private della libertà della Sardegna, tal Irene Testa, dice, afferma di aver incontrato Domenico Porcelli, il quale lui afferma di essere in sciopero della fame dal mese di febbraio, come se non ci fosse nessun riscontro, diciamo, come se lui fosse a casa sua e quindi è libero di dire ah sì, sono in sciopero della fame da febbraio e non ci fosse nessun'altra cosa. E poi comunque c'è tutta questa menata del fatto che viene monitorato dagli operatori, che ci sono gli educatori che hanno fatto oltre 10 colloqui, come se, quindi infantilizzando il prigioniero, che non gliene frega un cazzo, scusate il francesismo, degli educatori, perché va, cioè il suo scopo è di combattere contro questa proroga del 41 bis. E poi c'è questa solita cosa che si vedeva anche con Alfredo, di andare a così vedere che cosa questa persona ingoia per non schiattare immediatamente. E quindi ci sono questi dati di un chilo di zucchero a settimana con camomilla, tè, caffè, tè e latte, scusate, come se appunto questa cosa fosse, ah beh, ma allora non è del tutto uno sciopero della fame. Lo dico perché veramente cioè vengono messe in atto delle cose ignobili per così depotenziare forme anche di protesta che sono, cioè, di una forza insomma inaudita. Allora, che cosa ci dice l'avvocata Pintus? Dice che il prigioniero in lotta Domenico Porcelli ha raggiunto i 57 kg di peso e lui è una persona, è partito da 78 kg, è un uomo longilineo, quindi diciamo che il suo peso è una persona snella, quindi comunque aver perso più di 20 kg è una roba devastante. Inoltre è una persona che teneva molto al suo corpo, nonostante il regime così di tortura del 41 bis, e quindi cercava di insomma tenere a modo insomma il suo corpo, e che quindi questa situazione di sciopero della fame lo ha messo in una bruttissima condizione fisica, ma anche in una bruttissima condizione psicofisica, nonostante la lucidità, non avendo appunto nessun riscontro istituzionale. Solamente il magistrato di sorveglianza si è recato da lui, ma il magistrato di sorveglianza poi alla fine non ha, diciamo, non ha nemmeno ammesso che la sua condizione psicofisica è incompatibile con la detenzione. E perché? Appunto, era stato chiesto anche questo cioè l'avvocata dice che è partita addirittura d'ufficio la richiesta di verifica delle condizioni di salute rispetto alla compatibilità con il carcere, e quindi una richiesta di carcerazione domiciliare speciale per motivi di salute. Ma c'è questa roba paradossale, questo paradosso appunto burocratico, per cui non avendo lui una condanna definitiva, praticamente il tribunale di sorveglianza, che potrebbe assumersi la responsabilità di dire la sua condizione non è compatibile, lo rimanda invece al tribunale, e quindi passano altri mesi, al tribunale a Roma, e quindi passano altri mesi, e quindi praticamente risulta che Domenico Porcelli stia scontando una pena che ancora non è stata inflitta. Allora, in questo contesto qua, in questi giorni è emerso anche il discorso del suicidio assistito, perché il prigioniero ha chiesto questa forma, chiaramente in maniera come ulteriore diciamo strumento per mettere il dito nella piaga di questa della tortura di Stato, perché in effetti anche l'avvocata diceva sì, ma La normativa prevede che qualora il sistema nella quale la persona vive, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale, esistenziale, insomma, rasenta la tortura, questa condizione in cui appunto chi è detenuto al 41 bis vive può essere considerata come una patologia talmente irreversibile, quindi, che può prevedere la richiesta di suicidio assistito. Quindi chiaramente questa faccenda qui viene vista come, viene messa lì come provocazione, non provocazione fine a se stessa, ma come, come dire, siamo arrivati a questo punto. E difatti anche sì, anche i compagni di Radio Onda Rossa, che appunto hanno intervistato l'avvocata, la compagna metteva in luce questa cosa, che si esce dal carcere, cioè il carcere, il 41 bis ti impedisce di vivere ma ti impedisce anche di morire, perché se è vero che la maggior parte delle persone che hanno pene allucinanti escono dal carcere non vive ma purtroppo morte, un regime di questo genere non ti dà nemmeno la possibilità di scegliere se vuoi morire, perché anche la tua morte dipende da qualcun altro, dall'istituzione, dalla negligenza o dall'efficienza del tenerti in vita per poi ammazzarti lentamente, eccetera. E quindi questa cosa del suicidio assistito è diciamo una maniera, questa richiesta è una maniera per alleviare, una maniera diciamo personale, anche per provare anche questa carta per quando non si riesce più a resistere, ma è anche la ricerca di scuotere le coscienze esterne. Allora, in tutta questa situazione, la Camera di Consiglio per la valutazione del ricorso contro la proroga del 41 bis, che è stata fissata per il fine ottobre, cioè per il 20 ottobre se non sbaglio, quindi completamente incompatibile con la condizione che questo prigioniero sta vivendo, perché potrebbe morire nel frattempo, è rimasta tale. Allora, questa è la situazione appunto di Domenico Porcelli. Cioè è importante non così non dimenticarsi, non lasciar perdere insomma queste situazioni. Non è l'unica situazione, ci sono continuamente situazioni che rimangono diciamo nell'ombra, che non emergono assolutamente. Io credo che, ma non solo io, insomma crediamo che la lotta che è stata portata avanti dal compagno Alfredo ha avuto anche questa forza, questa spinta di non fermarsi al caso specifico, cioè di non fermarsi alla lotta per portare fuori dal 41 bis un compagno che poi non è uscito dal 41 bis, ha avuto diciamo si è mosso qualcosa ma non è uscito dal 41 bis, ma di continuare insomma questa lotta qua e di non dimenticarsi nessuno insomma per la strada, cioè di continuare di trovare degli agganci, dei collegamenti con tutte queste persone oppresse che però dalla lotta hanno tirato fuori diciamo coraggio e anche determinazione nel portare avanti, magari con strumenti che non erano neanche loro propri insomma. E io penso che come anarchici e come anarchiche e come soggetti che lottano contro il carcere, questa questione qua deve essere chiara e tenuta, cioè deve essere portata avanti giorno dopo giorno, cioè non si può assolutamente dimenticarla. Thank you. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band della bassa goriziana, loro sono i No So Far. E sempre parlando di questa band che appunto stiamo ascoltando, come ho già detto sono della bassa goriziana, con questo loro mini album autoprodotto ed è uscito nel 2020. Sì, e arriviamo a parlare delle appunto operazioni repressive degli ultimi giorni contro compagne e compagni in Trentino e poi anche a Genova, La Spezia, Massa Carrara. Allora, si tratta di inchieste per 270 bis. E allora io rispetto alla faccenda delle compagne e dei compagni del Trentino vi leggerei il loro comunicato, perché è molto dettagliato e racconta anche un po' i trascorsi, insomma. Comunque, viene fuori che dal mese di aprile scorso i pubblici ministeri Raimondi e Ognibene avevano chiesto 9 misure cautelari in carcere e 3 divieti di dimora a Trento e Rovereto per altrettanti compagni e compagne. Però il giudice per le indagini preliminari ha rigettato queste richieste, la procura ha fatto ricorso e da qui alcune indagate e indagati hanno avuto la notifica dell'udienza del riesame fissata per il 1 agosto e rinviata adesso al 12 settembre perché c'era un difetto nei tempi della notifica agli altri indagati. Si tratta dell'ennesima inchiesta per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, chiamata sembra Diana. Allora, questa inchiesta sembra che sia stata aperta nel 2019, però prende le mosse da un procedimento per apologia del terrorismo avviato dalla Procura di Brescia in merito a un testo uscito sulla pubblicazione anarchica Besna Calie e passato poi alla Procura di Trento. L'inchiesta poi trentina si è estesa a ritroso fino al 2013, anno in cui è uscito il primo numero di Besna Calie. Allora, i compagni ci dicono, procedendo in una direzione che assomiglia sempre di più a quella delle leggi scellerate, con cui a fine 800 il governo francese aveva dichiarato malfattori gli anarchici in quanto tali. Questa nuova inchiesta mira innanzitutto a considerare l'espressione di un sodalizio terroristico, l'ideazione, la predisposizione, la redazione, la stampa e la diffusione, anche con strumenti informatici e telematici, delle pubblicazioni denominate Besna Calie, i giorni e le notti, dietro le quinte, nonché del sito web Il Rovescio. I luoghi di concertazione del programma criminoso di raccolta e gestione fondi, di appoggio logistico e ricovero dei sodali sarebbero gli spazi anarchici Altavan di Trento e la nave dei Folli di Rovereto, nonché alcune case private. Allora, esattamente la stessa dicitura, e cioè l'espressione di sodalizio terroristico, l'ideazione, la predisposizione, la redazione, la stampa e la diffusione anche con strumenti informatici eccetera delle pubblicazioni, con la stessa dicitura vengono incriminati altri compagni, appunto tra Genova, La Spezia e Massa Carrara, e compagni che fanno parte della redazione del quindicinale anarchico Besmotivni. Vengono utilizzate le stesse parole e guarda caso l'operazione si chiama Scripta Scellera, appunto con riferimento a queste, cioè per presa, come presa per il culo, queste leggi scellerate appunto attraverso le quali il governo francese dichiarava malfattori gli anarchici. Allora, leggendo sempre dal comunicato, dal articolato e lungo comunicato delle anarchiche e anarchici di Rovereto e Trento, che potete andare a leggere per intero, insomma, sul Rovescio, ci dicono le compagne e compagni: l'aspetto più pericoloso, oltre all'attacco alle pubblicazioni in quanto tali, è senz'altro la definizione di terrorismo impiegata da Digos e pubblici ministeri, e cioè, virgolettato, intimidire la popolazione e costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto. Si tratta dell'ormai noto articolo 270 sextis introdotto dal pacchetto Pisanum del 2005. Come già stato detto e ridetto, intimidire la popolazione è un'attività precipua dello Stato e non certo degli anarchici, mentre costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto è quello che si prefigge ogni lotta. Infatti, fermare il TAV non è forse costringere governo RFI ad astenersi da realizzare l'opera? Bloccare un porto non è forse voler costringere il governo a ritirare il Green Pass oppure a non inviare armi in Ucraina? L'eventuale esplosione di rabbia sociale contro l'abolizione del reddito di cittadinanza non ha lo stesso scopo di costringere il governo ad astenersi dall'applicare dei provvedimenti già presi? E pretendere che un compagno esca dal 41 bis non ha anche questa pretesa, questo scopo? Benché questa definizione di terrorismo recepisca con una formulazione ancora più generica e più adattabile una definizione quadro adottata in ambito europeo, L'Italia è l'unico paese in cui essa viene sistematicamente usata contro il movimento anarchico e non solo. L'estensione quantitativa e qualitativa del suo uso è un chiaro indicatore di ciò da cui non si può più prescindere. Siamo in guerra. Poi, sul piano generale, solo negli ultimi mesi ci sono state notifiche di inchieste, anche con perquisizioni e talvolta misure cautelari, a Milano, Trieste, Bologna, Potenza, Torino, Palermo e Perugia. E al di là dei singoli episodi, è evidente che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sta facendo, e adesso appunto, scusate, anche Genova, La Spezia e Massa Carrara, è evidente che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sta facendo il giro delle procure con un messaggio esplicito: toglieteli di torno con qualsiasi pretesto. Ma altrettanto evidente è il salto qualitativo. Per un compagno è stata chiesta la misura cautelare in carcere per un intervento fatto durante un corteo contro il 41 bis a Torino. Le inchieste di Bologna e di Potenza dicono chiaro e tondo che la campagna in solidarietà con Alfredo è di per sé terroristica, in quanto vuole costringere lo Stato a compiere un atto che non vuole compiere, revocargli il 41 bis. Che tale intento venga perseguito scrivendo sui muri, affiggendo striscioni, danneggiando una qualche multinazionale, interrompendo una messa, salendo su di una gru, incendiando dei cassonetti in mezzo alla strada, eccetera, è in fondo secondario. Infatti a Perugia si è di recente aperta un'indagine per istigazione alla violenza e apologia del terrorismo per un lenzuolo con una scritta in solidarietà ad Alfredo e contro il 41 bis. E come dicevamo anche lo scorso giovedì, la stessa logica viene applicata ben al di là dell'ambito anarchico. Infatti, qualche settimana fa, alcuni militanti di Antudo sono stati perquisiti e indagati per apologia del terrorismo e per atto con finalità di terrorismo, per aver pubblicato sul loro sito un video e un comunicato di rivendicazione relativi ad un'azione contro Leonardo Finmeccanica. Colpire il maggior produttore di armi italiano non significa forse voler costringere lo Stato ad astenersi dal portare avanti le sue politiche di guerra? E chi diffonde le ragioni di tali pratiche di lotta non compie per ciò stesso apologia del terrorismo? Non serve certo un disegno per capire dove porta una tale logica inquisitoriale. Ecco, e vabbè, poi l'articolo, sì, il comunicato insomma è molto lungo e molto particolareggiato, è appunto interessante e, nelle sue analisi e anche nelle conseguenze che ne trae. E, rispetto all'operazione appunto Scripta Scellera, che ha colpito con 9 misure cautelari compagni e compagni di Genova, La Spezia e Massa Carrara, e appunto nelle carte si legge che praticamente, beh sì, c'è appunto il circolo anarchico Goliardo Fiaschi di Carrara che viene perquisito con tutte le varie sequestri insomma di materiali, e viene perquisita anche la tipografia Avenza Grafica di Massa, e viene anche sequestrata questa tipografia dove veniva stampato Besmotivni, e sulle carte si legge appunto i reati perseguiti sono quelli di associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, e appunto si legge che è palese, secondo gli inquisitori, l'esistenza di un'associazione con finalità di terrorismo dedita a ideazione, predisposizione, redazione, stampa e diffusione del quindicinale clandestino. Quindi viene tirata fuori anche il discorso della stampa clandestina, Besmotivni, divenuto principale strumento di promozione e diffusione del messaggio anarchico più oltranzista. E sì, quindi come dicevano, insomma, come si leggeva prima, il salto di qualità sta nel fatto che vengono perseguite in una logica veramente da tribunale dell'Inquisizione non solo le azioni ma anche i pensieri. E vabbè, io mi fermo qua. Da parte nostra va data tutta la solidarietà e la vicinanza e la complicità ai compagni e alle compagne inquisite in tutte queste operazioni. E naturalmente non finirà qui, ecco, ricordo che il 12, quindi tra due giorni, quindi sabato, alle, a Carrara ci sarà un presidio in solidarietà appunto con le anarchiche e gli anarchici colpiti dall'operazione Scripta Scelera. La band che stiamo ascoltando adesso sono i Disclose, band giapponese, da un loro album che raccoglieva tutte le demo tape uscite così sul formarsi, sul nascere di questa band, e che comunque è uscito grazie ad una etichetta belga nel 1995. Don't stop me. Comunque, sulle note di questa band giapponese, loro sono i Disclosed, da un loro album uscito in Belgio che raccoglie le loro demo tape uscite dalla prima nel 92 fino poi al 93, poi insomma questo qui è un album uscito per una etichetta belga. E ora invece sfumeremo appunto questi Disclosed per passare ad una band piemontese, loro sono gli Always e questo è il loro ultimo album che si chiama L'odore dell'asfalto, le sere d'estate. Always. mentre rimaniamo sulle note di questi Always dell'area torinese, prima ha fatto la gaffe di dire che era il loro ultimo album, ma in realtà questo L'odore dell'asfalto, L'essere d'estate è il loro penultimo, che è uscito nel 2019, ma ne è già uscito uno pochi mesi fa. Always da Torino. Saluto, una buona serata, una benvenuti, benvenute anche da parte mia per questa ultima parte di Zardins Magnetics di oggi, di giovedì 10 agosto, qui dagli studi di via Volturno a Udine, la Radio Onde Furlane che ci ospita e diffonde questa trasmissione, che è realizzata insomma dall'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione Friuli Trieste. Sono le 9, quindi continuiamo con questa questo argomento della repressione, cioè il discorso del mettere in piedi queste operazioni repressive, e facciamo un passo indietro e un passo, diciamo, oltreoceano per parlare del cosiddetto terrore verde, il Green Scare, che scoppiò tra i militanti, gli attivisti, le attiviste ambientalisti degli Stati Uniti d'America nei primi anni 2000. Prima di questo, prima di affrontare così questa questione, comunque faremo una, diciamo, voglio fare io un cappello, nel senso che non quello che tratteremo non sarà una da dare in pasto, cioè il solito pasto che diamo appunto alla repressione, che ci sta anche, insomma, senz'altro non ha grandi cose da fare, quindi sta ascoltando quello, anche loro stanno ascoltando noi, e non è questo l'intento. L'intento è un altro, ad esempio il partiamo dalla cultura generale nostra di gente che abita in questo disgraziato stivale. Una volta, non so, ma una volta ci insegnavano a scuola la fine che ha fatto Carlo Pisacane, era uno di quelli, appunto, essendo il Risorgimento un argomento che meritava di essere celebrato, santificato, insomma, almeno ai miei tempi era così. Il Risorgimento, c'erano i medaglioni, appunto, c'erano i soliti personaggi, e questo Carlo Pisacane era come una specie di uno che non aveva capito, che aveva improvvisato, eccetera eccetera, che aveva fatto una brutta fine perché non si era mosso con quelli giusti. Allora, in realtà non approfondiamo su Pisacane, però è per capire come vorrei approcciare, diciamo, come vorrei impostare il discorso. Pisacane riesce a mettere in piedi una spedizione con 22 guerriglieri, diciamo tutti convinti, tutti determinati a scatenare una rivolta in quel posto dove c'era, appunto, che era il Sud Italia, dove le condizioni per una rivolta di certo non mancavano. E non sono pochi 22 guerriglieri pronti a andare, appunto, il 30 giugno 1857, tra l'altro, andare a saltare il carcere di questi paesi del Sud Italia, che adesso non trovo più, scusate, comunque non sono pochi, 22 guerriglieri, e guarda caso sono, o meglio 24 guerriglieri, scusate, 22 sono quelli invece che riuscì a mettere insieme John Brown due anni dopo, nel 1859, dall'altra parte dell'oceano, che improvvisò anche lui e attaccò un arsenale, addirittura si chiamava Harper's Ferry, una struttura, una base militare. Finì male anche a lui, finì male anche per John Brown. Quelli che non furono uccisi nel combattimento, dove lì appunto chiamarono direttamente i Marines, scatenarono i Marines contro questi guerriglieri, e quelli superstiti li impiccarono. Stessa fine, su per giù, fece anche la spedizione di Pisacane, e i seguaci, penso che appunto quelli che non perirono immediatamente furono di sicuro catturati e massacrati anche quelli, ma era per dire che la spedizione fallì soprattutto di Pisacane, perché la popolazione veniva sobillata, i contadini erano sobillati contro i ribelli dai funzionari della repressione dello Stato borbonico. Allora, due eventi più o meno negli stessi anni, e però una linea immaginaria che li collega, per dire che in ogni caso dopo Pisacane arrivò Garibaldi non fallì, oppure dopo John Brown scoppiò la guerra civile negli Stati Uniti d'America, e sappiamo sì, che ebbe un esito, ecco, anche quella. Ecco, dunque non vanno messi, catalogati questi eventi sotto la categoria o la rubrica, no, sono deboli, poco convinti, illusi, eccetera, eccetera, eccetera. Al contrario, sono proprio quelle scintille che, bene o male, poi, a cui poi seguono di solito eventi, insomma, svolte nello status quo del, diciamo, di quel tempo. E uno status quo comunque va preso in esame partendo da un territorio, il territorio in cui, appunto, veniamo al terrore verde, diciamo al Green Scare degli Stati Uniti. Il territorio da cui partì era Eugene in Oregon. Eugene e Portland in Oregon notoriamente sono centri, diciamo, del dissenso, della contestazione negli Stati Uniti. Tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 si forma, insomma, parecchia gente, parecchi compagni, parecchi punk vanno, si spostano e si stabiliscono a Eugene, e nel 99, addirittura il 18 giugno 1999 si può dire che è la data d'inizio del movimento contro il G8, no? Contro la globalizzazione. E ci fu, e non è che parte non parte in maniera cercando la mediazione, parte direttamente con il blocco nero. A Eugene ci sono le prime, cioè sono documentati i primi scontri del Black Bloc, appunto nella giornata del 18 giugno 99. Di Eugene, tra parentesi, insomma, c'era anche John Zerzan, è originario di quella cittadina, e quindi c'era un forte radicamento degli ambientalismo radicale. Tuttavia, questo radicamento, vedremo, non fu sufficiente. Questo punto qua è molto importante. E magari mandiamo un pezzo intanto, così sono già 10 minuti che sto parlando. Ecco, di nuovo in voce per correggere, no, per aggiungere solo che non è ovvio, però John Brown era un militante abolizionista, era contro la schiavitù e i suoi guerriglieri erano 8 bianchi e 12 neri, e 2 schiavi addirittura. No, era solo per chiarire. Quindi stavamo dicendo, quando scatta un'operazione repressiva, l'importanza del territorio, del tessuto dei militanti. Perché? Perché è giusto, sì, è giusto che dopo un arresto si sostenga un prigioniero, si facciano i presidi, si parli di lui, si coinvolga il maggior numero di persone, però diciamo è sempre un po' tardi. Conviene prevenire l'arresto, quantomeno sapere che quando si intraprende un percorso, diciamo, contro lo status quo, lo stato delle cose presenti, è da mettere in preventivo. Sì, sono progetti a lungo termine, insomma di anni se non decenni, di appunto colpi continui e contraccolpi con la repressione. Qui, per cui si tratta di fare anche un discorso ogni tanto di analisi delle piccole vulnerabilità che il nemico può sempre sfruttare, perché il nemico, ricordiamolo, loro hanno un orario di ufficio che è sempre quello, alla differenza dei movimenti che hanno delle ondate di grossa intensità e poi un po' di, diciamo, di riflusso, loro fanno lo solito lavoro ignobile, lo fanno però ogni giorno, fino a quando arrivano in pensione, sempre in Italia, lasciamo stare, insomma, che arrivano sempre troppo presto in pensione. Comunque il discorso è appunto cercare di costruire questa cultura condivisa di resistenza, e soprattutto sia diciamo in chi è colpito direttamente, che può essere anche un militante attivo, un diciamo appunto qualcuno che ha compiuto azioni dirette illegali o danneggiamenti eccetera eccetera, sia anche chi li sostiene, perché cioè, dal punto di vista loro non c'è differenza tra azione diretta e resistenza alla repressione, no? Cos'è successo? Negli Stati Uniti appunto si susseguono una serie di attacchi, di incendi a laboratori di sperimentazione genetica, a anche semplicemente incendi di SUV per protestare contro già allora il global warming. Siamo nel 1999, finché appunto nel 2000 scatta questa operazione Backfire, ovvero ritorno di fiamma, sì. Loro, questi sono scattati a livello federale e quindi su tutti i 50 stati, e sono partiti però già con l'attività investigativa già prima, in anticipo, e sono partiti a tappeto accumulando informazioni non solo appunto sulle azioni dirette, ma proprio a tappeto sui circoli, sui luoghi di ritrovo, sui gruppi così anche sociali generici, ecco. E per avere un'idea, sono 30.000 pagine di inchiesta solo su Eugene, Oregon, si compone questa inchiesta, e va detto che per loro cultura l'FBI aveva un programma di controspionaggio, ma questo succede anche in Gran Bretagna. Oltre che infiltraggio, ci sono anche tattiche per favorire divisioni e lotte intestine tra gruppi radicali su uno stesso territorio, perché loro tendono ad accerchiare, poi a separare, gettare discredito uno con l'altro, eccetera, eccetera. Quindi importanza anche di tenere una diciamo una condotta compatta, sapendo che queste sono le loro strategie. Purtroppo appunto nel caso di Eugene succede un po' di tutto. Adesso noi non entriamo nei dettagli, non ho detto che ho preso questa diciamo argomento di stasera, l'ho preso da un opuscolo che è stato ritradotto in spagnolo. Io lo sono andato a cercare quello sì, chiaramente in inglese, che si intitola Green Scared, punto di domanda, ovvero verdi di paura, verdi di terrore, che è del 2008 e poi sono stati fatti degli aggiornamenti nel 2018, nel senso che appunto i primi arresti sono del 2000 e succede un po' di tutto, stavo dicendo, del 2005 è questa operazione Backfire, questa insomma su larga scala, sono anche lì circa una ventina di imputati che si comportano in tutte le maniere. Alcuni appunto sono ancora dentro, alcuni hanno finito di scontare la pena detentiva, molti hanno patteggiato, molti hanno addirittura collaborato mentre è stato scritto questo opuscolo, che ripeto è del 2018. Una cosa ancora che vorrei dire su questo argomento: cosa succede? È un esempio, cioè secondo me è un punto importante questo. Stavo dicendo appunto di Eugene, del movimento anti G8, e cose, nel giro di un anno appunto scattano questi arresti, in particolare giugno 2001 Jeff Lewers, soprannominato Free, che era uno di quelli che occupano gli alberi, si chiamano Tree Sitter, un attivista, viene, dopo che era stato arrestato per, come dicevo prima, degli attacchi sugli autocarri o su dei pick-up, no? Chevrolet, mi sembra, viene condannato a 22 anni. Siamo prima dell'11 settembre, e anzi un mese dopo Carlo Giuliani viene assassinato a Genova, di nuovo da questa parte dell'Atlantico, e non è, anche questo non è un caso. Dopo l'11 settembre scattano le leggi, gli aggravamenti, insomma le leggi antiterrorismo sia di qua sia di là dell'Atlantico, per cui questa Jeff Lewers Free non collabora con con l'autorità e subisce, come ho già detto, non so se l'ho detto, una condanna a 22 anni per incendio di questi SUV. Nel 2008 viene ridotta la pena a 10 anni e praticamente lui è libero nel dicembre 2009. Lui si dichiara anarchico. Una cosa importante: lui non è un membro del Earth Liberation Front, e per cui trova una riduzione, insomma gli danno questa riduzione della pena, altrimenti sarebbe ancora dentro, come invece succede al militante Marius Mason, che è membro invece dell'Earth Liberation Front, è un signore di 61 anni. E lei appunto era accusata di 13 attacchi incendiari e nel marzo arrestata nel 2008, febbraio 2008, sulla base delle testimonianze del marito che fa l'infame, lui avrà solo 6 anni di condanna. La Mary Mason appunto viene condannata a 22 anni nel febbraio 2009, fa ricorso, il ricorso lo perde perché appunto gli danno queste aggravanti da terrorismo post 11 settembre, ho detto Marius e ho detto lui, anche perché nel 2014 la compagna ha fatto la transizione. È un uomo transgender. Marius quindi avrà, si trova tuttora al carcere di Danbury nel Connecticut e uscirà nel 2027 se tutto va bene, perché dovrà scontare 22 anni appunto dal 2009 che è stata condannata. E concludendo niente, questo insomma, questa precarietà era una precarietà dei legami sociali che c'era in questa comunità qui di Eugene, ha portato insomma un po' a un disgregamento, una disgregazione, probabilmente anche perché insomma non si è stato in grado di formare dei legami consolidati, insomma le azioni, le lotte, gli attacchi, le proteste, le lotte eccetera eccetera hanno avuto un ciclo troppo breve probabilmente, e sono state colpite e represse immediatamente con tutte quei dispositivi di cui appunto può utilizzare uno Stato come gli Stati Uniti. Una sola cosa che volevo leggervi era la conclusione, insomma, conclusione dell'opuscolo, dove si prende spunto da una dichiarazione di una giudice che condanna un militante a 7 anni e lo accusa di essere un codardo. Riflettendo sulla condanna del giudice Aiken, mettiamo da parte per il momento la questione se i dirigenti che traggono profitto dal disboscamento, dallo sfruttamento degli animali e dall'ingegneria genetica stiano facendo quello che devono fare per sopravvivere, che era una frase dell'intervento da giudice. Lasciamo passare anche il suggerimento che chi gestisce queste industrie è più propenso a entrare in un vero dialogo con gli ambientalisti se questi ultimi si limitano a attività puramente legali. Riserviamo persino il giudizio sul tentativo di Aiken di tracciare parallelismi tra violenza domestica e comunicati formulati in modo sarcastico, che è parallelo all'affermazione dei pubblici ministeri, secondo cui l'Air Liberation Front, nonostante non abbia mai ferito un solo essere umano, non è diverso dal Ku Klux Klan. C'è solo una domanda che non possiamo fare a meno di porre in riferimento alla retorica della giudice Aiken sulla codardia. Se si trovasse in una situazione che richiedesse un'azione da intraprendere al di fuori dei canali stabiliti dal sistema legale, lei ne sarebbe capace? O insisterebbe ancora sul giusto processo legale, esortando gli altri a essere pazienti mentre gli esseri umani venivano venduti come schiavi o i nazisti portavano le persone ad Dachau? È giusto per una persona la cui complicità nello status quo è premiata con stabilità finanziaria e status sociale accusare qualcuno che ha rischiato tutto per rispettare la propria coscienza di vigliaccheria? Forse Aiken si sentirebbe in diritto di informare John Brown che era un codardo o i tedeschi che tentarono di assassinare Hitler? Posta questa domanda, segue inesorabilmente un'altra domanda. Che cosa qualifica una situazione che richiede di agire al di fuori dei canali consolidati dell'ordinamento, se non l'attuale crisi ecologica? Eccetera, eccetera. Viviamo in una democrazia, insistono Aiken e i suoi simili. A girare i canali stabiliti e infrangere la legge è come attaccare la libertà, la comunità e il dialogo stessi. È la stessa cosa che hanno detto nel 1859. Coloro che considerano l'obbedienza alla legge più importante del rispetto della propria coscienza cercano sempre di inquadrarsi come i responsabili, ma l'essenza di tale atteggiamento è il desiderio di sottrarsi alla responsabilità. La società, come rappresentata, per quanto male, dalle sue istituzioni radicate, è responsabile di decretare il bene e il male. Tutto ciò che si deve fare è obbedire senza cervello, sostenendo un cambiamento quando i risultati non sono di proprio gusto, ma senza mai uscire dalla linea. Questo è il credo dei codardi, se mai lo è. All'udienza per... Questa è la difesa di Norimberga, indipendentemente da ciò che pensa delle azioni di... dell'imputato o del Bureau of Prisons, Aiken è personalmente responsabile di averlo mandato in prigione, è responsabile di averlo separato dalla moglie, di avergli impedito di continuare il suo lavoro a sostegno delle vittime di violenza domestica. Ma Aiken e la sua specie sono responsabili di molto di più. Man mano che le calotte polari si sciolgono, le foreste pluviali vengono ridotte in poltiglia e il cambiamento climatico infligge catastrofi sempre più terribili in tutto il pianeta, sono responsabili dell'arresto di tutti coloro che intraprendono un'azione diretta per evitare queste tragedie. Sono responsabili in breve di aver forzato la distruzione totale dell'ambiente naturale su tutti gli altri sulla Terra. Aiken potrebbe ribattere che il cosiddetto sistema democratico è il modo più efficace di fermare quella distruzione. Sicuramente ha funzionato finora, vero? Al contrario, sembra più probabile che non riesca a decidere onestamente se possa esistere un bene superiore al mantenimento della legge e dell'ordine. Per persone come lei, l'obbedienza alla legge è più preziosa delle calotte polari, delle foreste pluviali di città come New Orleans. Vale la pena pagare qualsiasi prezzo per evitare di assumersi la responsabilità della propria parte nel determinare il destino del pianeta. E poi parlano di codardia. Ecco, questa era la conclusione, e quindi ecco, era giusto mettere a fuoco, oltre che insomma il lavoro meschino dei repressori, anche quello i veri codardi sono questi qui, del chiunque occupa insomma una posizione che permette allo status quo attuale di sopravvivere e non fa nulla per agire fuori dai canali stabiliti, perché non è capace, e in più anche appunto è responsabile nel caso di questi giudici o dei nostri qui, anche peggio, di colpire chi invece cerca, anzi non cerca, come si diceva prima, da tutto quello che può e anche di più per insomma per qualcosa a cui tiene e che ritiene insomma non disposto a mediare con qualunque altra istanza. Per stasera mi fermerei qua, e manca poco anche alla fine della trasmissione. Un saluto, al prossimo giovedì. Bene, sulle note di questi newyorkesi Final Warning, che abbiamo tra l'altro anche ascoltato prima un brano, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che vi ricordo va in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30. Siamo proprio strettissimi con i tempi, perciò ci salutiamo. E vi ricordo i nostri contatti: se volete scriverci, l'indirizzo di posta elettronica è liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Vi ricordo che questo programma anche potete riascoltarlo, e come anche tutti gli episodi delle settimane scorse, andando sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Quindi ci salutiamo. Ricordo anche, anzi salutiamo anche chi ci ascolterà domani dalle ore 17 sulla web radio Radiazione, e vi ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine, del Friuli e Trieste. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con, credo, gli ultimi secondi di questi Final Warning. Ciao a tutti. A total of 220,000 men, women and children lost their lives. The nuclear age had begun, with many thousands more dying or suffering prevalent diseases from radiation exposure. World leaders scrambled to join the nuclear rat race, all wanting to test the power of destruction. Nuclear bombs began being detonated all around the world, with catastrophic environmental contamination of the land, sea and air that would exist for thousands of years to come. Because of call for greed and governmental corruption.